Mater Inter Maratta. Salve a tutti amici di Testo Croce Show e amici e amiche soprattutto di Radio Cage. Dunque, questo 17 maggio siamo qua con un'altra puntata della nostra trasmissione, una puntata un po' anomala perché manca il mio co-host Vincenzo per motivi di studio sostanzialmente, ma siamo con un ospite gradito che è Francesco Spaziosi, rappresentante del movimento Baha'i di Livorno. Buonasera Baha'i. buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere qui Francesco. Grazie a voi. E quindi, come avete intuito, la novità assoluta di quest'oggi, la religione cioè sorta negli ultimi due secoli, sarà quella Baha'i, appunto, anche se vedremo che le sue origini in realtà sono ben più antiche per forza di cose. Bene, come sempre vi ricordo i contatti per parlare con noi, in particolar modo oggi che c'è un ospite sono graditissime le... se arrivano delle domande, se potete chiedergli qualcosa o se volete interagire con me, e poi anche perché è sempre in corso il nostro concorso esistenziale e poi vi ricorderò nel corso della puntata le domande. Comunque i contatti sono testacroceshow@gmail.com o testacroceshow, il contatto Skype, e vi ricordo nel blog testacroceshow.blogspot.com trovate i podcast delle prime 20 puntate. Bene, direi di passare come sempre all'almanacco che introduciamo con la sigla ben nota che usava la Rai, penso un 15-20 anni fa. No, 15 anni. Forse questo è l'almanacco del giorno dopo, la rubrica, questa è la chanson balladée di Guillaume de Machon, diciamo sempre. Bene, allora, i santi del giorno sono San Pasquale Bailon, Santa Giulia Salzano Vergine, Sant'Adrione Martire, San Vittore Martire, Santissimi Eraclio e Paolo, martiri in Mesia, Santa Restituta d'Africa, Vergine e Martire, Sant'Emiliano I di Vercelli, Vescovo, San Pietro Liu Wenyuan, Catechista e Martire in Cina, Beati Antonia Mesina, Vergine e Martire, Beato Giovanni Ivan Ziatic, Sacerdote e Martire in Siberia. Bene, possiamo sfumare l'almanacco, passiamo a ricordare invece la scomparsa di oggi, che è una soltante in questo caso, ma è una abbastanza importante. Nel 1840 se ne andava Niccolò Paganini, compositore, grandissimo violinista, e quindi il resto dell'almanacco e delle celebrazioni lo facciamo col sottofondo del capriccio numero 1 nell'esecuzione di Alexander Markov. Ecco, lo sentite in sottofondo. Allora, dunque, celebriamo la nascita nel 1510 di Alessandro Botticelli, nel 1956 di Sugar Ray Leonard, il pugile, nel 59 di Paul Di'Anno, il frontman di Iron Maiden, il primo frontman di Iron Maiden, e nel 61 di Enya la ritroveremo ancora nel corso della puntata probabilmente, ve lo anticipo, e poi di Trent Reznor, anche lui musicista, il frontman dei Nine Inch Nails. Bene, a questo punto ci andiamo proprio ad ascoltare una traccia dei Nine Inch Nails. Partiamo belli carichi, sono un gruppo industrial, industrial rock, industrial metal. Questo è l'album del 94, The Downward Spiral, e la canzone si titola March of the Pigs, quindi insomma abbassate il volume perché è abbastanza potente. Soundly, and everything is alright. Bentornati dopo questa bella carica dei Nine Inch Nails. Bene, andiamo con qualche notizia. La prima da crown.com, parliamo di Ed Young Jr., pastore texano della Fellowship Church, molto noto oltreoceano. Noi ricordiamo che ne abbiamo parlato a proposito del suo sex experiment, in cui è stato 24 ore sul tetto della sua chiesa insieme alla moglie. È un pastore protestante, e parlava di sesso, voleva togliere i tabù sul sesso e chiesa. Invece ne parliamo oggi perché ha lanciato una versione rinnovata del suo sito pastorfashion.com. Il pastore spera che il sito iniziative. Eh beh, certo, sì, si dà da fare, scrive anche molti libri, guadagna molti soldi, questo magari è un po' collegato. Comunque, il pastore spera che il sito motiverà e darà maggior potere ai pastori e ai leader religiosi per non stabilire solo standard in tema di fede, ma anche di moda. Il sito, che è online in realtà dal 2012, già all'inizio, e ora è stato rinnovato, contiene consigli per i fedeli, video su come fare il nodo alla cravatta e risposte a questioni sulla correttezza dell'uso della felpa e del risvolto ai pantaloni. Pensate un po' che cose importanti quando si parla di Dio, no? È un sito dove i pastori possono trovare suggerimenti su come apparire al meglio, ha detto Young. Noi pastori rappresentiamo e comunichiamo il messaggio di Gesù, perciò dobbiamo avere l'aspetto migliore possibile. Quando hai un buon look, ti senti bene dentro, e quando stai bene dentro puoi camminare a testa alta e emergere nel mondo che ti circonda, ecco. Non so se Francesco vuole commentare. Sostanzialmente non è che non sono in disaccordo, anzi è giusto apparire nel modo migliore. Bisogna vedere poi quali cos'è. Sono, sì, esatto, insomma. Questo mi sembra un po' cose un po' superficiali, ecco questo. Va bene, un'altra flash da Religion Close del 16 maggio, quindi di ieri. La National Labor Relations Board, che è un'agenzia indipendente statunitense che investiga sulle pratiche scorrette in ambito lavorativo, ha detto che la Hertz Corporation non ha violato l'atto nazionale sulle relazioni di lavoro, quello statunitense, quando ha richiesto ad alcuni impiegati musulmani somali di timbrare uscita sul cartellino durante le loro pause per pregare, cioè volevano che non fosse conteggiato come orario lavorativo. Ha affermato questa agenzia che il contratto consentiva di interpretare tali pause in tal senso, cioè come non lavorative, e che la Hertz non ha commesso violazioni sospendendo e poi licenziando i dipendenti che si sono rifiutati di fare quanto richiesto, perché poi è successo questo forse è un po' eccessivo, sì, mi sembra. Assolutamente. Va bene, magari avremo spazio per altre notizie, anzi sicuramente ce n'è almeno una che rientrerà negli argomenti, però direi di cominciare finalmente a parlare della religione di oggi, del movimento Baha'i, e lo facciamo come sempre, come è giusto, dalle origini. E prego Francesco. Beh, le origini, diciamo queste origini, diciamo che la fede Baha'i è nata in quella che ora possiamo collocare come Persia o come Iran, si parla più o meno del 1800, inizi del 1800, precisamente 1844 proprio ufficialmente, anche se poi il fondatore Baha'u'llah, questo per quanto riguarda la fede Baha'i, è nato nel 1817. Però vorrei prendere un minuto e mezzo per dare, sì, il giusto lustro a chi veramente prima di Baha'u'llah è stato il precursore proprio della fede Baha'i, che è il Bab. Certo. E che appunto che significa la porta. Esattamente, giusto? Esattamente. Proprio infatti questo appellativo non è a caso, perché proprio tramite lui è la porta attraverso il quale si sarebbe manifestata la manifestazione proprio di Baha'u'llah, quella che appunto sarebbe stato il promesso di tutte le epoche. Il Bab è una figura straordinaria. Invito gli ascoltatori o chi può di potersi documentare sulla figura appunto del Bab, oppure di chiedere a noi, mentre non ci sono, abbiamo tantissimo materiale, proprio per comprendere come la figura del Bab sia stata importantissima, sia stata proprio l'occasione di rottura in un sistema storico culturale nella Persia, quindi l'impero persiano, fortissima. Infatti è stata una cosa che pagò a caro prezzo, a carissimo prezzo tra l'altro. Infatti il suo ministero durò 9 anni e finì martirizzato, tra l'altro. Quindi anche se si ricorda, si dice che nonostante tutti i colpi infertili, 750 addirittura lui non fosse ancora morto. Questo guarda, è, una, noi, è un, esatto, un aneddoto che è un aneddoto citare. Che guarda, raccontiamo, ma perché comunque è storicamente comprovato, non è che noi stiamo parlando di cose che sono avvenute. Poi sapete, i miracoli valgono per chi c'è, per chi è presente, quindi hanno valore, certo, storico. Certo. certo. punto. È più importante parlare di quello che ha fatto. Però sì, effettivamente il martirio è stata una cosa particolare, perché è stato documentato da giornalisti e da stralci proprio di giornali che sono esterni a quelli che sono comunque i singoli credenti Baha'i o le varie istituzioni Baha'i. Sì, sì. Quindi diciamo che sono abbastanza con... sì, documentate. Così. E poi purtroppo le persecuzioni sono andate avanti anche, e si sono ripercosse anche su Baha'u'llah. Chiaramente quando abbiamo una ritorsione, quando abbiamo qualcosa che cambia completamente il modo di pensare e di vivere, la prima cosa che viene è l'opposizione, e questo è venuto nel mondo quando è venuto Gesù Cristo, quando è venuto Muhammad, quando è venuto Krishna, quando è venuto Buddha, cioè sono state ritorsioni verso chi ha portato qualcosa di totalmente nuovo. Ecco, proprio cos'era questo qualcosa, appunto? Questo qualcosa era molto particolare, cioè molto particolare per quel periodo. Adesso se ne parliamo magari sembrano cose molto più facili da accettare, però immergetevi nella metà del 1800, considerate che arriva un personaggio che dice che tutte le religioni in realtà appartengono a un'unica manifestazione di Dio, cioè sostanzialmente che le religioni appartengono a, sono emanazioni dirette di un'unica luce. È come dire praticamente che la religione in quel momento in cui stai credendo non è solamente l'unica, la vera, ma ce ne sono altre. Cioè il concetto che comunque non è solamente Baha'i ma appartiene a tutte le religioni presenti è il concetto di progressività. Ecco, infatti questo è interessante, perché viene sempre sottovalutato il fatto che questo concetto in realtà appunto è presente in tutte le grandi religioni. Assolutamente. E nella vostra ha un ruolo centrale, ma in realtà appunto... è stato conclamato in modo molto chiaro, nel senso chi crede in chi è Baha'i, chi crede quindi nella figura di Baha'u'llah come messaggero per quest'epoca, deve credere necessariamente anche negli altri messaggeri. Questo significa che deve ritenere che le religioni precedenti, quindi religioni portate da Gesù, da Muhammad, da Krishna, da Zoroastro, sono reali, sono vere. Faccio un esempio molto semplice, è come andare a scuola. Se noi iniziamo dalla prima elementare, arriviamo alle superiori, all'università, e iniziamo con l'aritmetica, poi facciamo la matematica, algebra, poi iniziamo con la fisica quantistica, ci evolviamo, però non possiamo dire che il professore dell'università è migliore dell'insegnante delle elementari, perché senza l'insegnante elementari non saremmo arrivati all'università. Quindi non possiamo vedere come... È un bel paragone, sì. Cioè, funziona. Questo è il senso. Quindi il concetto quindi di unità viene da solo, cioè l'unità delle religioni, l'unità del genere umano, l'essere umano è unito, è unico, è differenziato per aspetti secondari, quali il colore della pelle, gli occhi, via dicendo, ma e per la lingua, ma in realtà è la stessa persona, cioè è la stessa razza umana. Poi si parla di razza umana. Sì. L'unità delle religioni ha lo stesso concetto, proprio con questo concetto di progressività. Quindi senza togliere tempo a poi altre cose che possiamo affrontare anche più avanti. Sì, sì. Però l'elemento fondamentale è proprio questo, cioè il fatto che Dio si è manifestato nella storia dell'umanità da sempre, anche in periodi storici o in località geografiche che attualmente sono sconosciute. Potrei dire il serpente implumato in Centro America, potrei dire Manitou, potrei dire l'Argine di Saba, chissà quali altri modi. Quetzalcoatl, diciamo, il serpente. Grazie, perché mia moglie è messicana, tre volte si arrabbia quando lo pronuncio, ecco, perché infatti, riesco a è venuto fuori prima fuori onda con Francesco. Questo ovviamente per far riflettere sul fatto che chiunque dica che la mia è la unica e la sola si mette ovviamente in contrasto con tutte gli altri esseri umani. Invece se parliamo e diciamo bene, io faccio parte di questo, di questa R grande, che è la religione grande, cioè che Dio ha manifestato per seguire l'umanità in tutta la sua storia, beh, allora può cambiare veramente il concetto. Sì, quindi comunque al centro del Baha'ismo ci sono unità ma anche progressività, quindi è proprio... Bene, proseguiamo dopo uno stacco musicale che presento con una notizia, una triste notizia di un ennesimo cecità del mondo ufficiale della religione, specialmente quello islamico, purtroppo in questo caso. Dunque, da Wall Street Journal, da notizia di ieri questa, il rapper iraniano Shahin Najafi si attendeva che il suo ultimo brano, in cui invoca un santo sciita perché salvi l'Iran, avrebbe generato controversie, ma non si sarebbe mai aspettato che avrebbe potuto mettere in pericolo la sua vita. Adesso Najafi viene definito il Salman Rushdie della musica, ma non per la sua abilità purtroppo, quanto per quello che è successo. Cioè, dopo che due influenti autorità religiose iraniane hanno lanciato una fatwa contro di lui, giustificandone di fatto l'omicidio per il crimine termine di blasfemia, quindi ora appunto questo Najafi vive in Germania, è sotto la protezione della polizia tedesca. Lui commenta: sono esterrefatto, solo 31 anni, ha tutta la vita davanti a me, però nonostante questo ha paura, che dimostra, dice, di non essere pentito, si rifiuta di chiedere scusa affermando che l'invocazione del nome di un santo è espressione di libertà e non è un insulto religioso. Tutti devono pagare un prezzo per ciò che desiderano. Non mi scuserò mai per la mia arte, per aver detto il vero riguardo al governo iraniano. Bene, ora noi ci andiamo ad ascoltare proprio il suo pezzo, che le ha causato tanti problemi, e che è scritto con Majid Kazemi e si intitola Nagi. Nagi è proprio il nome del santo in questione. نقی تو رو قسم به شوخ تبعید به این بیرون از گود تو تبعید به آلت بزرگ زندگانی که پشت ما نشست رو به تهدید نقی تو رو به طول و عرض تحریم دلار رو به رشد و حس تحقیق نقی تو رو به امام مقواهی به طفل علی گوی توی رحمگی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی آی نقی Eccoci in onda con Francesco Spaziosi, rappresentante del movimento Baha'i. Ecco, questa traccia appunto parlava sì, del santo Nagi, santo sciita, e ricordiamo che il suo autore è un iraniano e la religione Baha'i è nata proprio lì, anzi vabbè, a quel tempo si chiamava Persia, però comunque è l'Iran. E ricordiamo che queste persecuzioni purtroppo colpiscono moltissimo anche i fedeli Baha'i, che sono circa 300.000, se non sbaglio. Sì, sono la più grande minoranza presente in Iran, e tra l'altro è il numero che è previsto legalmente anche dall'ONU per poter avere la tutela internazionale, cosa che in realtà si rispecchia solamente con semplicemente degli appelli. Beh, certo. Al rispetto dei diritti umani, ma laggiù ora chiunque è privato chiunque è violato nel suo diritto più fondamentale, che è quello profondo, interiore, è in tutto il mondo. Questo avviene in tutte le parti del mondo. Io parlo per gli amici Baha'i in Iran, che sono privati di ogni tipo di diritto, da quello di poter studiare nelle università e nelle scuole. Quindi i ragazzi della nostra età, che noi, io parlo con i ragazzi che adesso stanno studiando, magari vi annoiate, diciamo bisogna studiare, ma ragazzi, cioè, abbiamo giovani ragazzi in Iran che non possono studiare. Questo vuol dire che non potranno accedere a niente per quanto riguarda il lavoro. E i loro genitori non possono lavorare, non hanno permessi per poter aprire attività per conto loro, e sono perseguitati oltretutto se si riuniscono addirittura vengono presi e vengono incarcerati. No, cioè, è una cosa è veramente difficile. Sì, che fra l'altro è una cosa ridicola, di un ridicolo veramente amaro, il fatto che la fede Baha'i considera Maometto sullo stesso piano esatto di Baha'u'llah, esatto. E di tutti gli altri grandi profeti, quindi una manifestazione diretta di Dio. Esattamente. Ecco, questa è la cosa che non fa rabbrividire. Questo fa parte, quando parliamo infatti degli insegnamenti di una religione, noi dobbiamo capire anche quali sono gli insegnamenti fondamentali, perché possiamo avere insegnamenti che sono eterni per sempre e sono gli insegnamenti che sono universalmente riconosciuti. In altre parole, qualcuno li chiama le regole A, aure, no? Tanto per intendere, sì. Quelle che comunque si riconoscono per sempre. E quelle sono presenti in tutte le grandi religioni. Hai mai trovato per caso una religione che dice devi uccidere l'altro? Certo, nessuno, no, assolutamente. Assolutamente. O perlomeno con questi termini. Sì, beh, certo, attenzione. Magari dovute eccezioni. Esattamente. Però. Ma poi ci sono insegnamenti invece che hanno valore nel momento storico, quindi in quel luogo e soprattutto in quel tempo. Quindi quando parliamo di insegnamenti dobbiamo fare questa distinzione. Per esempio, tra gli insegnamenti che si possono dire che qui nella fede Baha'i è conclamato, cioè proprio è evidente, proprio è stato istituito, è la libera e indipendente ricerca della verità. Questo significa che la responsabilità di riconoscere se un insegnamento, se una nozione, se la propria vicinanza a Dio è vera oppure no, è individuale. Cioè non possiamo delegare agli altri la nostra crescita spirituale. Questo cosa significa? Prenderci sulle nostre spalle la responsabilità di studiare, di leggere, di documentarci, di cercare. Questo è un obbligo che dobbiamo fare verso noi stessi. In fin dei conti siamo obbligati a mangiare per sopravvivere, siamo obbligati a lavorare per poter comprarci da mangiare, siamo obbligati anche a nutrire la nostra mente, la nostra anima con gli elementi che ci permettono di crescere. Però deve essere libera, cioè devono esserci gli strumenti affinché ciascuno di noi possa veramente essere scevro da più possibile da dogmi passioni o da pregiudizi. Ecco, diciamo anche una regola d'oro che mi ha accennato fuori onda per stabilire se un insegnamento appunto è da o meno da, da prendersi in considerazione. Io la uso come formula matematica. Sì, beh, certo, si fa per esatto, però per può ridere, essere, però, funziona, però ha un senso, cioè anche un buon, di molto buon senso fra l'altro. Beh, si può fare qui, guarda, la dico così. Dovete allora, intanto prendetevi tutti i vari testi sacri delle varie religioni, mettete davanti, dalla Bhagavad Gita al Vangelo di Buddha, al Vangelo e via dicendo, no? il Corano, la Vesta, che da Bhagavad Gita, via dicendo, e studiatele, leggetevele. Quando trovate un riferimento che è una legge, per esempio dovete fare questo, no? Che è molto chiaro perché è quasi un imperativo, sì, perché sì. È Dio che comanda, allora cercate lo stesso imperativo negli altri testi. Se negli altri testi è presente, allora significa che questo testo questa legge è una legge universale, cioè qualcosa che non verrà mai abolito, ok? Me ne posso dire diversi: il matrimonio, la preghiera, il rispetto verso i genitori, e via. Ce ne sono tantissime queste. Se invece trovate una legge che vale solamente in quel momento per quella religione, o si rispecchia su poche altre, ma sulle altre non è presente, vuol dire che è relativa solamente a quel luogo storico, a quella circostanza. Ecco, io sì. La uso personalmente nelle mie ricerche e nel mio studio. Non è non è le uguale MC quadro, cioè, beh, certo. Che anche quella è stata messa in discussione recentemente, però ecco, diciamo tra l'altro. Però ecco, questa è sicuramente una cosa di riferimento. Per esempio un altro riferimento, l'equilibrio tra scienza e religione, no? Ecco, bravo, questo è fondamentale. Mentre magari 2000 anni fa non aveva quel valore che ha adesso, beh, noi ci rendiamo conto adesso, se abbiamo uno scienziato privo del concetto di religione, cioè di concetto spirituale, ci troviamo di fronte a uno scienziato che può utilizzare uno strumento in un modo inappropriato, no? Oppure se abbiamo uno scienziato o un religioso o uno scienziato che vivono solamente dal punto di vista dogmatico determinati concetti, cioè semplicemente superstizioso, cioè Sì, infatti c'era una citazione, credo di Abdul Baha o di Baha'u'llah stesso, in cui si dice che la scienza senza religione sfocia appunto nella superstizione. E allora la religione senza scienza sfocia nella superstizione. E la scienza senza religione diventa mero tecnicismo, cioè ora te l'ho parafrasato. Sì, certo, ma tanto il senso è quello. Ecco, questo qui è un esempio, quindi l'equilibrio ci deve essere e deve essere trovato. Un altro esempio può essere, per esempio, le pari opportunità fra uomo e donna. Oh, attenzione, qui si parla di indicazioni date nel 1840 in Persia. Sì, sì. Cioè, ok. No, adesso se ne parla, significativo, molto significativo. Ma già nel 1840 Baha'u'llah diceva No, ma già se fosse stato dato negli anni 30-40 sarebbe stato comunque rivoluzionario, sì, che pensiamo. Ora, del Novecento. Agli ascoltatori faccio una domanda. Ho detto pari opportunità fra uomo e donna, non ho detto pari diritti. Che differenza c'è tra essere pari opportunità e pari diritti? Perché la differenza è notevole, perché si possono declamare i diritti, perché noi attualmente i diritti uomo e donna sono conclamati, però realmente questi diritti sono attuati, cioè individualmente noi diamo l'opportunità all'altro sesso che eserciti i suoi diritti? Questo è un altro bel concetto, direi di diamo un po' di tempo agli ascoltatori per pensarci. Se vogliono rispondere, ricordo testacrocesciocchio@gmail.com o testacrocesciocchio Skype. È una bella domanda, una domanda che in effetti pone in luce una differenza non banale tra quei due termini. Ecco, visto che abbiamo parlato anche del rapporto positivo tra scienza e fede nella religione Baha'i, vi segnalo che è stato recentemente assegnato il 14 maggio il Templeton Prize al Dalai Lama per il suo impegno nel collegare la scienza alle questioni più ampie di fede e religione. Il premio Templeton viene conferito proprio a persone pur che viventi, che abbiano dato un contributo eccezionale a affermare la dimensione spirituale della vita tramite intuizioni scoperte o pratiche. Lui ha detto che donerà gran parte degli 1,7 milioni di dollari, una bella cifra, alla divisione indiana di Save the Children, e 200.000 dollari al Minds and Life Institute, che è un'organizzazione no profit che indaga i punti di contatto tra scienza moderna e buddismo. Comunque, vabbè, meno il termine spiritualità che ho utilizzato è forse esattamente quello più, forse quello più calzante quando parliamo di scienza e religione. Proprio questo aspetto qua è molto interessante, perché la gente pensa che perché Dio, o nella Sacra Bibbia, dice, abbia creato l'uomo con uno schiocco di dita, allora assolutamente sia, sia per forza accettabile. Sì, sì, è un po' fuori, ormai è un po' troppo fuori dal mondo pensare questo, diciamo. La verità. Bene, andiamo con un po' di musica e poi proseguiamo la nostra discussione. E faccio un piccolo omaggio a Vincenzo, l'assente di oggi. Lui è un grande fan di Battiato. Però, siccome sono anche uno cui piace fare un po' di umorismo, propongo questa versione di Bollani di un Battiato apocrifo, che in realtà non esiste, un pezzo mai scritto da Battiato, che però potrebbe essere stato scritto da Battiato, interpretato dal nostro concittadino Stefano Bollani, grande pianista, grande jazzista. È un live, quindi ce l'ascoltiamo. Interstizi siderali si confondono nei meandri della mente di un naif, e tu hai mai letto Kundera? Le meccaniche celesti ci obbligarono a un confronto con la dinastia dei Ming, e tu hai mai letto Kundera? Cucuru cucu Kundera. Va bene, grazie. Bene. Bene, spero vi siate fatti due risate, noi ce le siamo fatti qua in studio. Bene, torniamo un po' più seri. Bene, stavamo parlando sempre di Baha'i, vi ricordo c'è con noi Francesco Spaziosi, rappresentante del movimento Baha'i di Livorno. Ecco, ti posso porre alcune delle domande del concorso esistenziale che noi teniamo, magari potresti rispondere, così intanto ricordo anche ai nostri ospiti, e magari c'è qualcosa che potrebbe rientrare anche nella tua fede, anche perché una delle domande è tratta dal Kitab Yaqdas, una citazione del Kitab Yaqdas. Comunque la prima era: qual è il senso della vita? Se vuoi, è un po' dura, però è una risposta che non esiste. Mi verrebbe in mente fare pubblicità occulta, un amaro, insomma, no? Sì, il senso pieno, esatto, il senso pieno, sì. È vero. Il senso della vita, penso che passo questa risposta. Va bene, dai. Poi dunque, questa non ti faccio rispondere perché hai già risposto. In realtà il messaggio divino deve essere con carattere eterno e immutabile, oppure essere aggiornato in base al luogo, al tempo. Questa era quella che avevo tratto dal Kitab Yaqdas. Poi uno dei Quan più famosi è quello dell'oca che è ancora uovo, viene sistemata in bottiglia, l'uovo si rompe, l'oca cresce, e nel Quan si chiede: come si fa a far uscire l'oca dalla bottiglia senza rompere la bottiglia e senza uccidere l'oca? Questo forse richiede un po' più di... Beh, la speranza è che sia una grandissima bottiglia con un grandissimo collo, una grandissima uscita a quel punto lì. Questa è una ottima risposta, per esempio. Un'ottima risposta, sì. Ebbene, poi l'ultima, un classico delle domande esistenziali: se l'universo è finito o infinito, e se è finito, che cosa c'è al suo confine? Questo non si trova una risposta nei libri dei no. Baha'i, perché per esempio qualcosa sul tema e altre, sì, religioni lo trattano. In realtà poi... Non ti voglio mettere in difficoltà. No, infatti c'è una frase di Baha'u'llah che dice che il mondo di Dio sono perfettamente abitati. Quindi, giusto, lui riteneva che fosse molto probabile che altri sistemi avessero altre forme di vita. Poi andiamo sennò su quello che noi Baha'i chiamiamo il fantabahaismo, no? Cioè, nel senso che poi ciascuna religione poi su alcuni insegnamenti piace anche comunque sviluppare ragionamenti che poi magari sono anche fantastici, no? Quindi non è qui la sede, no. Non serve cosa. Però sinceramente non è una cosa, è una cosa anche perfettamente in concomitanza, sì, con la scienza, sì, la papabilità di questo. Io come personalmente come Francesco ritengo che sarebbe un grande spreco di spazio che se fossimo solo noi, sinceramente. E il fatto che sia infinito, sai, i concetti come infinità e eternità sfuggono all'essere umano, e sinceramente non ho proprio idea se fosse finito alla fine così sarebbe forse il casello dell'autostrada che paga il pedaggio. Oppure non lo so, magari visto che anche tu sei un appassionato di informatica, di sì, videogiochi, forse sì. Uscendo da destra si rientra a sinistra. Già, come, potrebbe come essere in Batman, esatto, no? Esatto. È una soluzione che i programmatori utilizzavano spesso per migliorare il codice, è vero. Certo. Bene, no, torniamo più, un po' più seri. Ovviamente voi rispondete nel frattempo, contattateci e torniamo a parlare. Direi che potremmo parlare un po' della struttura della, non lo posso chiamare chiesa, appunto, Bahai, perché non è una, no, chiesa. No, perché ecco, nel concetto di chiesa come si intende, sì, nemmeno come movimento, perché è una religione. Proprio, ecco, proprio, quindi quello che abbiamo a Livorno, come abbiamo in tantissime altre città italiane e nel mondo, siamo più di 8 milioni in Italia, sì, mondo, beh, certo, sì, in sì. Italia siamo circa 4 milioni, a Livorno siamo una trentina. Siete una religione più diffusa a livello proprio geografico, se non sbaglio. Beh, i più grandi centri, sì, a livello, insomma, in tutto il mondo. Ecco, dove infatti, vai, in questo senso, se uno vuole scappare, sì, da Bahai, no, non ci riesce. Come numeri, ma proprio come diffusione. Come diffusione non ci sono problemi da tutte le parti, sì. Se uno vuole scappare da Bahai, ti trova comunque. Ecco, mi dicevi appunto della struttura. La struttura, guarda, la faccio velocissima, anche perché... Anche quella internazionale. Sì, assolutamente. Partiamo dalla base, perché tutto parte dalla base. Ogni anno la comunità Bahai, dove risiedono più di 9 membri, elegge senza candidatura, ovviamente, senza candidatura. Senza campagna elettorale. Esattamente, appunto, senza scrutinio segreto, 9 persone che faranno parte di un'assemblea. Questo è un direttivo proprio che aiuta a gestire la comunità localmente. Che si chiama? Come si chiama? Si chiama Assemblea Spirituale Locale. Assemblea Bahai, Spirituale. Sì, proprio il termine, sì, che vogliamo chiamare. Poi, nazionalmente, ogni nazione viene eletta tramite dei membri delegati, cioè queste in ciascuna zona, per esempio in Toscana ci sono 3 province messe insieme, eleggono 3 membri delegati che vanno a Roma e vanno a eleggere 9 membri dell'Assemblea Spirituale Nazionale, che è il direttivo nazionale. Però questi 9 membri sono eletti anche loro a scrutinio segreto, senza candidatura, di tutto il corpo dei credenti, quindi non c'è qualcuno che è meglio o peggio, cioè, sì, tutti, sì, possono essere eletti. È una bella trasparenza. Esatto. E questo ogni anno. E poi c'è l'istituzione superiore, che è la Casa Nazionale di Giustizia, che viene eletta ogni 5 anni. Questa qui viene eletta dai rappresentanti dell'Assemblea Nazionale, cioè dai 9 membri dell'Assemblea vanno ad Haifa, dove c'è il centro mondiale che è in Israele, e lì vengono eletti. Qual è il compito di questa Casa Internazionale? È forse, allora, spendiamo una parola su quello che è il processo che ha permesso alla fede Baha'i di mantenersi integra durante questi 160 anni. Baha'u'llah è il fondatore, e quindi quello che ha creato con il Kitab Aqdas, il codice, il libro più santo, e ha codificato quelle che sono le leggi più importanti nella fede Baha'i, più tanti centinaia di volumi e testi e tavole che non ne hanno spiegato le cose. Quando è morto, quindi quando è trapassato, ha lasciato come suo successore, specificatamente detto nel suo testamento, Abdul Baha, suo figlio, che lo seguiva da quando aveva praticamente 2-3 anni, tutti i vari percorsi che ci sono stati di esilio e via dicendo. Quando Abdul Baha, quindi con tutti i testi che è scritto Abdul Baha, quando è morto Abdul Baha, ha lasciato per iscritto nel suo testamento chi sarebbe stato il suo successore, il custode, è stato Shoghi Effendi. Però era un cugino, era nipote di Abdul Baha, sì. Però la Casa della Giustizia era già istituita da Abdul Baha subito nel Kitab Aqdas, dicendo che sarebbe stato, quando sarebbe stato il tempo propizio, quindi ovviamente quando sarebbe stato il caso, la diffusione sarebbe stata mondiale, ci sarebbero stati più Baha'i, sarebbe stata istituita la Casa Universale di Giustizia, la Casa di Giustizia, che sarebbe stata quella che avrebbe continuato appunto a mantenere fermo il patto, cioè è l'unico ente, è l'unica istituzione a livello Baha'i mondiale che può legiferare o commentare o interpretare quelli che sono gli scritti appunto di Baha'u'llah, di Baha'i Shoghi Effendi. Però attenzione, la Casa di Giustizia non può interpretare diversamente dalle interpretazioni precedenti, è come dire se no, altrimenti il legislatore va contro la Costituzione, sì, ecco, insomma non può farla. Sì, capisco. Dunque, sì, quindi sì. su questo, questo perché si partiva, si parte dalla, dalla base, e se ne parlava poco prima, prima di entrare dentro. Ti ricordi quando si parlava, si diceva adesso è il momento in, già da sì. tempo, che la maturità dell'essere umano è proprio quella di prendersi sulle sue spalle la responsabilità della sua crescita, non solo personale, individuale e spirituale, ma anche sociale. Quindi anche il fatto di essere eletto senza saperlo, senza candidarsi, all'interno di un'istituzione con cui, che servirà, è una bella responsabilità, una bella presa di responsabilità. Prova a espandere questo concetto a livello mondiale, a livello nazionale, che cosa può succedere? Non so se tanti sarebbero d'accordo. Lo so, questo è il discorso. È una bella rottura esatto. politica però, istituzionale. Dall'altra che parte ci vuole, però dall'altra ci parte ciascuno sarebbe impegnato nella propria nella cosa pubblica, nella politica pubblica. Attivarsi, comunque esatto. prendere, che poi appunto abbiamo detto è uno dei fulcri della vostra. Ovviamente religione. Noi ci muoviamo nell'ambito spirituale, non sì, vogliamo sì, no, parlare certo. di enti comuni, questo è l'aspetto più importante. Certamente, bene, facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi continuiamo a parlare. Dobbiamo sicuramente trattare un po' di temi, lo stile di vita del fedele Baha'i, la realtà italiana più da vicino, quindi ci sono ancora tante cose. Ci andiamo ad ascoltare un pezzo che è stato una hit negli anni 2000, del 2003 per la precisione, dall'album The Don't Stop the Beat di Junior Senior, questa canzone molto movimentata, Move Your Feet, che molti di voi probabilmente si ricorderanno se hanno più o meno la mia età, ecco. Eccola qua. Bene, ce l'ascoltiamo. Bene, siamo ancora qui, Testa Croce Show, parliamo di fede Baha'i insieme a Francesco Spaziosi. Vi ricordo i nostri contatti, non manca moltissimo alla conclusione, quindi muovetevi, scriveteci testacroceshow@gmail.com o Testa Croce Show su Skype, anche per comunicare con Francesco. Appunto, parlavamo della struttura, ecco, come struttura, abbiamo detto come struttura gerarchica, non proprio così, per così dire, come struttura fisica invece ci sono dei templi, Sì, allora, considerando che la parte spirituale, quindi la preghiera, il rapporto personale, la preghiera è personale, quindi non abbiamo preghiere congregazionali, non sono intermediari, l'unica preghiera congregazionale è quella per i defunti, poi ci sono i matrimoni ovviamente, però sì, la preghiera è individuale, esatto, sì. E poi ci sono i templi, c'è un tempio in Germania, che è il tempio madre d'Europa, c'è un tempio per ciascun continente. Ah, ok, proprio questo, in assoluto. Minimo indispensabile. Esatto, hanno nove entrate che rappresentano ciascuna delle nove religioni. Infatti anche il simbolo della fede Baha'i è una stella a nove punte che rappresenta le varie religioni rivelate, dove una di queste è quella adamitica, che rappresenta un pochino tutte quelle precedenti, sì. ecco, per così dire. Non ci sono simboli di nessun tipo dentro, è circolare, quindi tutti possono entrare e pregare come vogliono, senza, l'importante è che usino la voce come unico strumento. Ah, okay. Ok, questa è la cosa più importante. E poi individualmente preghiamo nella nostra casa, nell'intimità della nostra camera, ci troviamo per esempio per fare nelle case dei fedeli, esattamente, oppure delle volte coordiniamo magari delle cose, se ci sono magari persone che non conosciamo, che magari vogliono sapere qualche cosa, ci organizziamo, ecco, non ci sono grandi problemi. Non siamo una comunità grandissima che ha ancora possibilità di poter avere un centro Però alla fine sono anche necessità a volte, non solo una cosa infatti. Però poi gran parte dell'attività che noi facciamo si svolge soprattutto con delle attività fondamentali che noi chiamiamo per esempio gruppi giovanissimi, ad esempio una delle attività che vengono fatte a Livorno, ma in tutto il mondo, queste sono attività che sono fatte in tutto il mondo e che a Livorno singoli Baha'i cercano di portare avanti, sono i preadolescenti, ragazzi da 12 e 15 anni con cui lavoriamo insieme per cercare appunto di sviluppare, lievitare in loro proprio quello spirito che fa parte proprio della loro età, quello di conoscere gli altri, curiosità, e soprattutto di sviluppare la parte prettamente spirituale. E attenzione, quando parlo di spirituale non confondiamo le cose con solo il concetto di catechismo, non è questo. È proprio un percorso totalmente differente, anche perché voi non fate proselitismo, non possiamo farlo, c'è proibito, quindi se casomai incontrate un Baha'i, chiedeteli qualche cosa, perché non potete più niente. Fateli. Siete voi che dovete andare a stimolarli. Sì, noi creiamo le attività, le creiamo, però perché deve essere appunto la persona, esatto, no, che deve interessarsi, libera e indipendente cerca della vita, però comunque un'attività con quella fascia d'età è sicuramente, esatto, significativa anche con, assolutamente, ma anche con i bambini, per esempio, no? Per esempio questo aspetto qua, perché considerando che ora guardiamo Livorno e parliamo di Livorno, ma vediamo quanti ragazzi di religioni differenti, culture differenti, se noi un bambino che ha 6-7 anni lo indirizziamo solamente in una direzione, con i bambini che sono di altre religioni, di altre culture, come si relazionerà? È quindi importante che già i bambini, i preadolescenti abbiano già una visione aperta del mondo. Certo, con certo. Gli adulti, ad esempio, facciamo un circolo di studio che parlano proprio dell'ambito della spiritualità, parlano dell'aspetto del servizio, che cosa fondamentale. Studiate le religioni. Sì, facciamo anche corsi proprio di studio religioso, secondo il punto di vista Baha'i, attenzione, che è quello della progressività. Sì, sì, beh, perché ci può, però utilizzando anche testi sacri, sì, solo delle quelli, altre religioni. Solo quelli, solo sì, i testi sì, sacri certo. Utilizziamo, evitiamo quindi di andare a prendere altri tipi di versioni. Sì, sì. E poi, per esempio, una cosa molto bella per chi volesse è fare incontri proprio di preghiera. Incontri di preghiera dove persone, partiamo con dei testi, soprattutto la cosa importante sono i testi sacri. Non cerchiamo di mescolare, per esempio, con tutto l'affetto che possa essere per filosofi o teologi di qualsiasi genere, si parla della parola sacra, quindi si parla della parola rivelata direttamente da chi è la fonte. Quindi quando ecco, il testo più sacro, anche proprio per etimologia, è il Kitab Yaqdas. Poi avete altri testi, tantissimi, veramente. No, tantissimi. Certo, però ovviamente quello che è fondamentale resta quello. Poi c'è il Kitab Ikan. Abbiamo sottolineato abbastanza, ma essendo recente, ma non solo per questo, Baha'u'llah ha scritto tantissimo, ha lasciato quindi tantissimi scritti, per fortuna è possibile avere tanto materiale su tanti argomenti, ha trattato ogni aspetto, quindi ha dato una visione molto ampia. Molte cose, consideriamo questo, Baha'u'llah ha indicato che la dispensazione Baha'i, cioè perlomeno la sua rivelazione, durerà circa 1000 anni. Quindi i Baha'i fra 800 anni saranno nei stessi problemi in cui ci sono adesso tutti gli altri, quindi che poi più o meno sono su 600 anni di solito, no? L'intervallo fra una religione e un'altra, allora il buddismo si parla del 600 avanti Cristo, quindi poi 0, 600, 1200, 1800, anche geograficamente sono spostate, se fossimo mondiali, allora a quel punto può darsi sia diverso. Va bene, comunque torniamo alla realtà italiana. Voi siete qualche migliaio in Italia, e a Livorno una trentina, poi ce ne sono una trentina a Pisa, ce ne sono a Lucca un'altra trentina, sì, siamo abbastanza, diciamo che a Grosseto ce ne sono. Quindi avete queste attività molto interessanti con i giovani, attività di studio, ce ne sono altre. E poi ti volevo chiedere come si svolge la vita di un fedele, ecco, proprio, allora, se ci sono appunto delle... Allora, come noi ci alziamo la mattina e facciamo colazione, la prima cosa è la preghiera. Ecco. La lettura del testo sacro. Ovviamente, attenzione, non devono essere ore dedicate alla lettura, perché bastano anche 5 minuti. Perché, però giornaliero, comunque, giornaliero, costante. Costante, sì. Ovviamente, sai, io sto parlando anche come Francesco, non ce la faccio tutti i giorni delle volte, perché proprio mi dimentico, oppure perché magari mi alzo di corsa, e questa è una cosa normale. Però, ecco, la tendenza è quella di prendersi cura della propria crescita spirituale con la lettura e con la preghiera. La preghiera obbligatoria, che può essere breve, se magari, oppure può essere media, può essere lunga, secondo le esigenze e le necessità che hai. E poi non ci sono cose particolari. Avete dei digiuni, noi abbiamo un digiuno che dura dal 2 di marzo al 21, dove poi ce l'abbiamo la festa di Nowruz, che è una festa antichissima, non è una festa Baha'i, perché la festa di Nowruz è una festa che risale a, penso, 10.000-12.000 anni fa. Nella pezza è la festa di primavera, con quella 21 di marzo, ovviamente. Le feste antiche erano sempre legate alle stagioni, esatto, precisamente. E dal 2 al 21, dove noi praticamente è un digiuno totale, dalla mattina alla sera. dall'alba al tramonto. Ah, come quello, diciamo, come quello islamico, sì. Esattamente, sì. Ma in un altro periodo. Okay, solamente sì. Che noi è sempre dal 2 al 31 di marzo. Invece il Ramadan segue il calendario lunare, sì, che sì, certo. Si sposta e poveracci, le volte tocca agosto, è un dramma. Sì, sono, è in realtà, appunto, segue semplicemente un altro calendario. Esatto, esatto. Torna male nel mondo occidentale, sicuramente. Bene, sì, ancora parliamo ancora un po' di un minutino. Cioè, abbiamo, poi andiamo con l'ultima traccia e poi. E, per esempio, l'insegnamento è la cosa fondamentale. Ecco, per esempio, Baha'u'llah dà come obbligo l'insegnamento. Cosa significa? Poter dire a chi incontra le persone che è avvenuto il ritorno del promesso di tutte le epoche. Ecco, questo è il significato. Cioè, io dico a Gabriele: guarda che è tornato Baha'u'llah, il ritorno dei messaggeri che precedenti ci sono stati. La responsabilità quindi non è più, fra virgolette, scusa l'egoismo, mia, ma è tua, perché ti ho informato. Poi sta a te, alla tua libera e indipendente ricerca della verità. Io se l'ho detto, poi tu. Io dico cosa mi fai? No, certo, però sì, sì. Il senso è questo, no, cioè fare in modo che quindi, ovviamente, nessuna persona sulla faccia della terra sia ma non lo sapevo. No, questo è un obbligo, perché i Baha'i hanno nel poter fare, però farlo senza proselitismo. Quindi, se le cose le fai senza proselitismo, hai solo due modi per farlo: con il servizio. Quindi aiutando la società dove vivi, al punto che le tue azioni diventino un motivo per cui la gente ti chiede: ma perché fai questo? Ecco, perché sì. Ritorno hai su questo? E devi farlo con purezza di intenti. E ovviamente chi sta ascoltando sta pensando: ma questi sono pazzi. Guardate, no, che non credo, dai, che forse sono più pazzi di quelli che ci ascoltano. Guarda che effettivamente fa rumore, come questo è un famoso detto, fa rumore un albero che cade, ma vi posso assicurare che c'è una foresta enorme, bellissima, che sta crescendo in tutto il mondo. Ed è fatta da persone che lavorano con lo spirito di servizio, cioè che lavorano esclusivamente per aiutare gli altri, per aiutare il luogo dove vivono. E questo è una delle condizioni fondamentali perché il mondo veramente abbia un grande cambiamento. E noi siamo testimoni di questo cambiamento, e lo stiamo vivendo sulle nostre spalle, questa crisi mondiale. Questo, sono tutti effetti che fanno parte di quella che sarà la nascita di un qualche cosa di meraviglioso. Ce l'auguriamo tutti, comunque, ce lo dirà solo il tempo, giusto? Only the time. Ecco, perché questa frase? Perché adesso l'ultimo pezzo della giornata è il pezzo scelto dal nostro ospite, quindi lo lascio presentare a lui. Esatto, di Enya. Only the Time è una canzone meravigliosa. Dice: solo il tempo. Ci possiamo illudere di tante cose, ma solo il tempo potrà dare le risposte. E cari amici, io veramente mi auguro per tutti voi che proprio il tempo dia la risposta a tutte le nostre domande. Ecco, fra l'altro, appunto, era il compleanno di Enya, quindi facciamo gli auguri. Bellissima ragazza. Sì, è vero, è vero. Ancora qua, mi spiace sfumare Enya proprio nel giorno del suo compleanno, però comunque siamo andati già a rilassarci, ci avviciniamo alla fine della puntata, come abbiamo detto. Volevo appunto parlare un attimino ancora dello stile di vita del Baha'i, parlare delle sue sostanze proibite, per così dire, no? Astenersi da tutte quelle che sono sostanze che, tipo alcol e sostanze droghe, che comunque inibiscono le capacità intellettuali e dell'essere umano. Questa è una cosa che comunque troviamo in tutte le religioni, tra l'altro. Tante, sì. Mentre non avete il vegetarianesimo, perché abbiamo visto che invece anche quello è molto comune, specialmente nelle religioni anche recenti. Beh, oltre che alcune antichissime. C'è una cosa che dice Abdul Baha, dice che se guardiamo la nostra dentatura, che comunque è per la gran parte destinata al vegetale, non tanto alla carne, sì. Quindi chissà che in un futuro magari siamo più vegetariani che altri, però questo non è un indicatore fazioni. Sì, sì, no, no, era giusto per particolare. Bene, poi la, c'è anche la. Però questo, vabbè, era già inizio in ciò che avevamo già detto. Comunque, l'astensione dalla vita partitica. Sì, beh, ovviamente, quando parliamo di unità, tutto quello che riguarda le, la politica partitica, cioè dove tu prendi le parti solo di una parte a discapito di un'altra, non fa parte del concetto di unità. Però politica sì, cioè a fare, gestire la cosa pubblica è quello sì, occuparsi in sociale, lavorare per gli altri è politica. Beh certo, anche quindi, secondo me, ovviamente... anzi è quella più, forse più utile. Esatto. Quindi, va bene, ecco, ti chiedo subito, prima di andare con quelle che ho io, se hai delle segnalazioni di festività, eventi, allora, corsi, come contattarci? Allora, cioè... come contattarci è molto semplice, tanto chi ci ascolta la internet lo utilizza, quindi livorno@bahai.it, vi faccio lo spelling, livorno@bahai.it, e qui potete contattarci direttamente proprio su Livorno, se no su www.bahai.it c'è proprio il sito nazionale, sì, per tutte le informazioni, anche per approfondire i punti che abbiamo toccato. E si trovano online anche i testi sacri? Sì, esatto, sì, perché sono il libro di, sì, dominio pubblico, sì, quindi sono, sì, sono, sì, un PDF protetto, sì, per evitare magari, sì, come si, sì, scrivere una cosa invece che un'altra, insomma, quello mi sembra per il minimo, però... e il, sì, resto, sì, poi, sì, abbiamo delle celebrazioni che faremo, che tra l'altro sono anche pubbliche, ovviamente dobbiamo sapere prima quanti siamo, perché non è che siamo tanti, cioè, sì, una casa, sì, abbiamo detto, siete però sì, volentieri. L'ultima, la più vicina, è quella che è l'ascensione di Bahola, che sarà ora a 29 di maggio, però alle 3 di notte, se Gabriele vuoi venire, ecco, ti aspetto. Beh, io di solito vado a dormire dopo, quindi potrei anche... Possiamo parlare dopo, sì. Però altrimenti guardate, il 12 novembre per esempio è il nostro Natale, la nascita di Baha'u'llah, poi a luglio ne abbiamo un'altra, però ecco, diciamo così, ora sotto mano, no, no, beh, anche certo, perché comunque di tanto... volte le organizziamo meglio, quindi sappiamo se per esempio le facciamo più pubbliche o magari abbiamo un posto più grande. Comunque guardate, veramente, se scrivete e ci contattate, a noi fa tantissimo piacere. E quindi avete tutte le informazioni di Livorno @bahai.it. Bene, vi faccio alcune segnalazioni anch'io, come sempre. Dunque, vi segnalo il seminario I principi del Tao e della Ozi, libro della via e della virtù. Sarà sabato 17 al centro Natura di via degli Albari 6 e domenica 18 al The Salling di via Guerrazzi. Elisabeth Rochat della Vallée parlerà dei principi del Tao e della Ozi, il libro della via e della virtù. Si parla non tanto del non agire taoista, spiega la studiosa, ma qual è, tanto del non agire, ma qual è il suo vero significato? Non certo quello di esortare a un atteggiamento passivo fatalista, ma vivere ogni momento in sintonia con le circostanze e il cosmo. Per altre informazioni info@ibisesoterica.it. Poi abbiamo sabato 19 maggio, invece ore 21 a Firenze, a costo 5 euro, il mondo vegetale e la musica delle piante. Il mondo vegetale è popolato da creature viventi con le quali è possibile entrare in contatto. Durante la serata verrà offerta la possibilità di ascoltarne la voce, non ne so di più, però ve lo segnalo. Il 20 maggio sarà la giornata mondiale di pace, secondo... il SOP, che dunque SOP, Sinfonia di Pace e Preghiera, Symphony of Peace and Prayer, in collegamento con tutti i centri mondiali di pace si uniscono donne e uomini per conoscere, volere e comprendere la possibilità della pace personale mondiale. Questa è una cosa penso che condivida anche Francesco. Si farà una meditazione collettiva, insomma si cercherà di mandare vibrazioni positive. Poi bisogna anche agire, certo, per la pace. certo, abbiamo detto appunto, non è un atteggiamento passivo neanche il non agire taoista, quindi figuriamoci quello delle persone normali. Poi da ultimo vi segniamo 3 giorni di ritiro residenziale, 25, 26, 27 maggio a Firenze con Tim Christopher, il canto del perdono, la luce trasformante del perdono, il travaglio della resurrezione e l'immediata semplicità della salvezza. Questo è un richiamo per coloro che hanno riconosciuto la loro necessità di un risveglio fondamentale per una vera identità nella mente universale di Cristo. Questa è l'evoluzione quantica della coscienza perfettamente naturale, che è il destino di illuminazione di ogni essere umano. L'ambiente del ritiro è a disposizione per una rinascita molto reale nell'eterno, spirituale, fisica, mentale e emozionale. È un forum unico per l'inevitabile incontro con la mente risorta di Cristo. Ecco, io non vi commento, vi segnalo e basta, poi vedete voi, non so effettivamente se valga la pena, anche perché il costo in realtà è a donazione, ma suggerite €150, che insomma mi sembra un suggerimento un po' altino, insomma io avrei suggerito magari non so, 20, 30 euro, no? Se no non mettere la donazione, magari metti il prezzo. Comunque riccardo.capozza@gmail.it per maggiori informazioni. Bene, abbiamo concluso, se vuoi fare un saluto, un pensiero finale, un aforismo, quello che vuoi, ne hai facoltà. No, allora guarda, ho già chiacchierato troppo, la cosa che voglio augurare a tutti voi veramente è tutto il bene possibile. Allora, chiudo io dicendo che un'altra delle tracce che mi aveva proposto il nostro ospite era Imagine, uno lo sapeva ma è la nostra sigla, e quindi andiamo a ascoltarcela con le parole di John. Ciao a tutti, salve, ciao alla a tutti. Prossima settimana. Imagine there's no heaven. Sky.